È questo il modo in cui finisce il mondo? È questo il modo in cui finisce il mondo? È questo il modo in cui finisce il mondo? Non con uno schianto, ma con un piagnisteo. C'era una volta. Ce n'è più di una. C'è tutto un minuto che deve passare. PM, io. M è il cognome. Solo P per gli amici. Pomeriggio. Ho l'esame. Poi una sera di primavera. C'è solo un minuto che deve passare. E poi è là? Oppure è qua, la primavera? Non c'è pomeriggio che non stia a vedere dove finisce e se sia vera. Vera, come quella di un operaio. Lui operaio, io l'opera. Lottare per vivere la primavera, lottare per. Per quando sarò grande. Pazienta, ce ne vuole tanta, con calma. Quando avrai sostanza, intanto pensa a farti una coscienza. Lavoratori, dice, ha detto e dirà. Lavoro sicuro. E sicuro lavoro? Disoccupati, avrete un posto sicuro. Sì, l'ha detto. L'ho letto. Per questo è stato eletto. Ottenendo una poltrona inchiodata sotto un ricco tetto. Sì, cura. Sicura testa io. Croce sicura lui. Io ben pensante perché penso, e manco bene a dire il vero, ma avversativa. Ho avversione per il pensiero privo di occupazione. Azione, mansione. Ecco, l'ho ridetto. Eppure m'ero ripromesso di non fare il messo. Di sconvolgere la massa e di fare messa. Ignoto nostro che sei altolocato, il nome tuo sia sempre votato, venga il tuo regno, sia fatta la tua S.P.A. così in cielo come qua. Anche oggi dacci le nostre pene sui tuoi quotidiani e rimetti a noi tutti i debiti. Rimarremo sempre tuoi debitori. E non ci indurre in tentazione di liberarci dal mercato dell'istruzione. Amen. Mi sa che le ho dette tutte. Le ho finite le preghiere. Pre-ghiera. Pre-occupato. Pre-sentimento di morte. Perché comunque muori se non vivi, e se vivo, muoio per aver vissuto. Sputo. Che seppur diventassi noto, rimarrei a nuoto. Che nessuna imbarcazione mi porterebbe soluzione. Oh, litania. Dall'Italia, portami via! Siamo nati per morire. Il problema è in mezzo. Come se non lo sapessi. Come se sperassi di non morire in questa profilassi per ellissi. Ma se tu magari potessi, dico, se tu, Dio, sparassi un'eclissi che scendesse, un oblio. Non dico certo così per dire, ma dico veramente, per dare un giorno vero ad una mente che finora mente e quindi fare. Certo, Dio, potresti adattare, dico, questo tuo senso per un mio assenso. Amen. A me non resta che la messa. Ho paura di rimanere osservatore, stagista, tirocinante, parlante, chiacchierante, evocativo. Tesoro di mamma, hai studiato, dimmi. Tesoro di mamma, c'è la retta, prendi. Ma io a chi do retta? Amen. A me non resta che il nulla pregare. Che potrò dire? Che potrò dare? Che posso amare? Sognare? Sognare. Che cosa cagare da questo mondo balordo che giace sopra anime morte per aver cercato di raddrizzare questo cerchio? Il lavoro nobilita l'uomo, cazzo! Pazzo per un pezzo, ho diritto a una pezza di lavoro che puzza di merda cagata per lo sforzo! Un giorno da operaio! Tutti dentro a un pozzo di un datore di lavoro che paga il pizzo per non far sapere che nulla è a sicurezza. L'operaio fissa il pezzo e finisce nel fosso del pozzo con il pizzo pagato. Lui, l'operaio non registrato, il cadavere non identificato, che per magia abracalabria con un colpo di vento è volato via! Alato paese aleatorio, laboratorio di menti saccenti, con mani legate, non impegnate, quasi mai salariate, sciape, anche di contenuti. Contenti loro con tanti contanti, voi marescialli e noi nulla, manco tenenti! A Alfa! Romeo senza Giulietta. Sì, Alfa. Privativa. Produco? E porta i soldi. Porta i soldi. Porta a casa i soldi. Porta i soldi. Sporcati le mani, sparati alle mani. Spariti tra le mani tutti i soldi per i corsi che ti fanno restar fermo. E intanto studio. Studio. Studio, studio, studio, studio. Studiolo. Studiato. Questo stato indago. Questo stadio indago perché è lì che mi vogliono per farmi sfogare. Ti fare Italia! Italia! Italia! Italia! Italia! Italia! E io a risparmiare con mani risparmiate. Pesate. Calcolate. Centellinate, dotate sì, ma posate. Posare, sbuffare, fanfare. Già lo fai, già ti dai, già t'han chiesto cosa fai. Ed io? Studio. Già? Cacca. Giacca invece cazzo indossa e protesta. Scendi in piazza e manifesta. Me l'hanno già detto, bel cervellone, tu che hai tanto assimilato, bel pensiero costruito, fai lo specialista. Di pensieri costruisci associazioni e non legarti a lavori faticosi. Fai l'arte e mettiti da parte. E no, io voglio fabbricare, febbre di dare, lasciare un segno degno che non faccia danno, ma che di anno in anno frutti i flussi di din, din, din, denaro. Almeno per la sopravvivenza. Capito, soprintendenza? Speranza d'una rivelazione. Rivoluzione. Retribuzione. Occupazione. Soluzione. vicina, amore che si sveglia la mattina, mentre corre veloce la catena, un amante invece la mia sera, amore che canti? Dico tu, che canti? Lavoro. Amore che si sveglia la mattina, mentre corre veloce la catena, un amante... Anima d'una voce cantante. Delirio di forme chiuse, compite. Tu che hai campato? Lo sai tu se esiste un lavoro per me? Perché? Che sei fa? Studio. E studia? Non serve. Magari o fai gli sordi dei parenti. Sì. Che spendono tanto. Che non lo sanno che a poco serve. Che non lo sanno che c'è nella mente di un giovane studente. Un'ansia disarmante. È tutta una vita che faccio solo e solo quello, ma il lavoro non c'è. E poi vedi che l'unico è l'operaio. Bello. Ma beato te che stai sugli libri. Bello. Che me vado al cambio. E portate l'ermetto che ci rimani secco. Dai, a me ci metto io un arcantuccio nell'angoletto che poi disteso t'ascolto. Tutto un orecchio. Scusa. Non ce l'ho con te, sono dispiaciuto. So solo un'ombra di uno scavatore, morto che so da poche ore. Un'ombra. La tua. La mia. A.M. A.M. l'operaio. P.M. studente. Ah, piacere. Per amici solo A. Io lavoro? Lavoravo su una linea del treno, scavavo... Scavo, atera, per mettere i binari che deve passare treno per Roma. Operaio. Operaio. Operaio. Operaio. Op, op, op. Operaio. Op, op, op. Operaio. Op, era, io. Ma io chi? Che cos'è questa? È la formula magica per trovare un lavoro? Op, op, op. Operaio. Niente. Fottuto, bacato, datato. Bacchetta magica. Bacchetta chi sono io per Dio. Sono anche io la morte bianca. Io che non ho mai lavorato e tu che sei morto per averlo fatto. Sicura testa te e croce sicura io. Due facce d'una stessa medaglia. La loro. D'una stessa moneta. La loro. E d'una stessa fine. La nostra. Che c'è? Lo fanno apposta. Non possono fare sosta e dire una volta basta. Ah, ma è per questa mia pazzia, per non poter fuggire via, che trova senso, sì, la litania. Almeno tu, Dio, se io ti cercassi così come si cerca un amante, mi risponderesti, oppure fuggiresti da me? E rispondi! Guarda che non è una diffida! È l'ultimo dado da trarre, è l'ultima sfida! Avrà cambiato zona. Cambiare, cercare, combinare. Cambiare vita, cambiare corso, cambiare cosa? Speriamo me trovi presto. Che mi dia una risposta. E che me scavi lui sta fossa. Che la vita poi passa. Non sento. Nemmeno un santo. Tanto a voi che vi importa di questa vita andata storta? Lasciate pure a loro tutta la torta da spartire e ripartire. Ecco, forse a questo dovrei ambire. Partire, migrare e svanire. Smetterla di ragionare su questo mio futuro oscuro e abbandonarmi invece all'oroscopo settimanale, a questa prassi nazionale, a questa banda musicale e seguire il pifferaio che mi spinge nel burrone. Lasciare farmi credere a sogni di cartone. Lasciare l'ascia a terra sulla scia del sì signore. Non un santo. E a nulla servirà sentirmi assunto. Nulla farà di me un operaio dal lavoro smunto. Nulla abbiamo da spartire io e te. Nessuna torta e nessuna giostra. Soltanto fine. Il nulla. La morte. Quella sì che ci accomuna. Parlo a te, tuta cantante. cerimonioso d'un passato dove tutto hai sudato. Dimmi come faccio io ora a sottrarmi a questo stato. E dimmelo tu, dai, che non piangi mai e che canti le tue parole. Dimmelo tu come rassicurare poi la nostra prole. Quali aggettivi, quali sotterfugi dovremmo cercare per avere tu una pace e io un po' di pece con cui sporcarmi le mani? Tu che t'aggiri su questa torre maledetta detta prigione, dove io mi lamento per ottenere sostentamento. Come abbattere quel fossato che ci divide dalla gente comune? Non con un ponte! Non ronzinante potrebbe saltare, nemmeno nitrire, ma forse è questo che bisogna vedere. Un ripetente ed un operaio morente. Io t'ho pregato, istituzione. T'ho pregato in ogni dove. T'ho pregato, ho provato, ma a nulla è servito. Ho provato come appunto un fallito. E ora chi prego? Ancora tu, Dio. Almeno tu solo mi stai ascoltando. O non t'è bastato il mio lamento? Tu non mi guardi e non mi rispondi. Non mi parli e non fai altrimenti. E allora a che serve questo vociare? Il mio star male, il mio annegare in queste parole, il mio nulla pregare. Solo questo c'è rimasto. Pregare il nulla. Tanto nulla sottiene. Ecco allora esimio, io m'ostino, paziente e continuo. Raggiro questo pensiero e proseguo nel mio delirio. Pieno di nulla, tu che hai generato nulla, il nulla sia con te. Oh, sia chiaro, il tuo nulla è benedetto tra nulla, è benedetto il frutto del seno tuo, niente. Santo nulla, generato da nulla e pregato da noi peccatori. Guardaci, è l'ora della nostra morte. Amen. Fermo! Fermo! Non ti sacrifica! Non c'è niente da sapere! Dove dai tu tranquillizza il tempo! Non sprecarlo! Quello corre che ti sfugge dalle mano! Non sprecarlo! Quello corre che ti sfugge dalle mano! Corre che ti sfugge dalle mano! Il tempo corre che ti sfugge dalle mano! Ti sfugge dalle mano! Dalle mano! Guardati, il tuo corpo langue, sporco di terra, sudore e sangue, ma senti il mio, tu impugni aria, dimenandoti su questa fossa, tentando di saltare su questa giostra, affossando le altrui colpe per un piatto di minestra. Io ce l'ho una soluzione ai tuoi problemi. La rivoluzione. Ce ne avevo dei desideri, de speranze, l'ho contati. Se l'ho contati, potei star sugli libri. Desideri che non contano più. Ma perché ci vogliono sottratti, disoccupati eppure distrutti? Lo voglio chiedere al popolo tutto. All'operaio, allo studente, al disoccupato, al cassintegrato, al malato. Io sono nulla senza di te. E noi due, noi siamo nulla senza altri tre. Noi poi siamo pochi, se non altri moti s'aggiungeranno. E se nessuno verrà in soccorso, presto diranno che poco s'è fatto. Perché la lotta, se non è dotta, non serve a nulla, ma è solo vendetta. In questo giorno o nella notte ci prenderanno forse a botte, ci legheranno, ci imbavaglieranno e ci lasceranno sicuro isolati. E se nessuno verrà in soccorso, presto diranno che poco si è fatto. Perché la lotta, se non è dotta, non serve a nulla, ma è solo vendetta. Non eravamo noi. Non lo siamo, né mai lo saremo. Organizzati. Come le guardie. Come le mafie. Come le faide o come le ronde. Ma solo orde. Fiumana di gente, accozzaglia di niente. Manifestante. Che impugna le mani e fa festa per tanti. Manifestanti. Alzeremo la voce. Arriveremo alla foce. Per noi ribellione non ha certo bisogno d'organizzazione. È chiara. È senza retorica e scalda chiunque. Come il sole. È in fabbrica. È a scuola. È sui muri o in ufficio. È sulle pagine di un libro. È spirito di sacrificio. È voglia di unirsi e munirsi per darsi. Per farsi forza. Per costruire uno Stato che conta. Trovare noi una risposta a gente che si è proposta di comandarci e basta. Sarebbe come essere coscienti di quei cavilli che funzionano per altrimenti. Di quei cavilli che seguono parametri, sanzioni, catalogazioni, di legislazioni. Che noi, proprio noi non facciamo. Noi non cambiamo. Noi ci adeguiamo a decisioni altrui. Noi assecondiamo quello che fate voi. E non saremo mai dotti come ostentate voi, ma solo rotti di scoprir lotti, lobby, di porci tonti per i ponti, rimpinzando già ricchi conti di porci, di sorci, di farci marci e di dannarci per quattro spicci. Noi siamo già poveri come avete voluto voi. Non chiedeteci le soluzioni per vostre locuzioni, di comprare merci, di quadrare cerchi, di farci spendaccioni e di renderci coglioni davanti ai teleschermi, sentendo sempre opinioni ma mai soluzioni. Solo opinioni, mai soluzioni, mai soluzioni, mai! Silenzio che servirebbe. Quanto silenzio mi viene da dire. Ora. Ora pro nobis. Ora quo vadis. Ora secundi, ora pro me. Ora infernale, ora legale, ora non resta che il nulla pregare. Italia santissima. Terra di mari, terra di pani, panieri, pani di ieri, oggi insaccati e plastificati, terra di saggi, presagi, miraggi, ma niente re magi, soltanto maghi. Dacci il tempo per riposare, ed il silenzio di chi può meritare, silenzio. A nulla servite planimetrie infinite, voli di parola pindarici, movimenti podalici, a nulla chiesi e nulla mi rispose. Nemmeno San Pagano e Paganino, il ministro Minghetti dei lontani stipendi, Nemmeno San Bancario e San Precario. Santissimi pagherò e prestiti, santi investimenti e versamenti, santi bollettini e cedolini. Kyrie eleison. Santissima schedina che vieni di 13. Christe eleison. Santa dichiarazione. Autocertificazione per un sussidio di disoccupazione. Christe audinos. Christe ex audinos. Sei tu che ci hai cacciato dal paradiso dicendo che la vita l'avremmo pagata col lavoro. Pater de celis Deus. Miserere nobis. Fili redemptur mundi Deus, miserere nobis. Sei tu che ora non puoi più ignorare. Spiritus de celis Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis. Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università. Omnes, omnes angeli et arcangeli, orate pro nobis. Omnes hombres omnes sanatori et politicum senatori, orate pro nobis. Perché non lo fate voi? Perché non pregate voi? Stavolta pregate voi, che noi soltanto prego invece dovremmo dire. Per il servizio da voi concesso, per il servizio che mai è stato fatto, per una volta, per una sola cazzo di volta, un sogno! Un sogno. Guardaci. Due facce d'una stessa medaglia in un paese dove poi... niente. Noi i problemi non li affrontiamo. Li consumiamo. Li prendiamo per sfinimento. E alla fine va bene così. Così. Sì. Così. Sì, ma perché studi? Per diventare professore? Carabiniere? Postino? Cassiere? Tramviere? Ingegnere gestionale delle risorse umane. Che gestiona? Ah, dai, che ingegna, eh? No, no, no, no, no, i sogni sono i sogni, ma non era meglio carciatore, eh? Oh, se volemo fare una partitella, dai, al pallone non c'è, ma la terra è quella. Passiamo il tempo. Passiamo il tempo. Passiamo il tempo. Bianche mani. Campioni di piedi sudati. Campioni d'umanità. Campioni di uomini. Pom, pom, pom, pom, pom. Domani è festa, si mangerà. Domani è sempre, doman verrà. Domani solo ci resterà, la voglia del domani verrà, la voglia del domani verrà, la voglia del domani verrà, la voglia del domani. Testa. Croce. Guarda che sono forte. passato il tempo. Alla soglia tra il paese suo e il mondo mio c'è un binario morto. Alla soglia tra il paese e il mondo esiste un solo torto. Alla soglia del mondo un sospiro è sorto. Ognuno pensa solo al proprio orto. Ognuno pensa solo, anche se ci scappa il morto. Da qualcuno vedi, prima o poi, si impara anche il silenzio. E non è più uno specchio liscio e scivoloso, ma lo spazio di un respiro più rotondo. Non ero morto ancora. Non ero morto ancora, ma io già in mente ci avevo accesa a cecità derveggente. A tutti lo dicevo io. Io la temo la morte. Sono sfortunato io. Soffrissi almeno l'insonnia. Ma che sono morto, vorrei tanto una sveglia. Tutti quei fiori. Quei fiori così forti negli occhi, fin quasi a spaccarli, sassate, colori sparati, negli occhi violentati, negli occhi tormentati, dalle stesse immagini ripetute. Treno, tremo. Strano treno. Nero, torno. Trotta. Rotta tratta. Treno tremo. Aia, morte. Aia. Temo nero. Niente tatto. Tento tutto. Tanto a te. Quanto a me no. On. Off. Allora, prima è successo che io vivo. No, mo, prima, quando ero vivo, m'ero messo vivente a tremare, come una scarpata, dove è crollato tutto, come un ammasso dei detriti. Ma dentro, li detriti dentro. Io dovevo fermare il locomotore, capita che lì i semafori non funzionano, se guastano, capita spesso, e poi ci mandano a noi a fermarlo. Dovevo arrestare il regionale, prima che arrivasse sul ponte, un pontaccio vecchio che piano piano sta a metà a posto, e invece... Solo che vorrei capire com'è successo. Insomma, ci sono caduto come un cadavere su quel ponte. Prima è caduto lui, poi sono andato giù io. Ecco. Ma poi ho aperto l'occhi. E lui mi ha guardato. E io mi sono alzato. E sotto io sono andato, impettito come il treno. Cioè, dovevo chiedere una cosa, un'ultima volta, prima che andassi più via ancora. Occhio fisso su di me, che tu vedi che hai visto perché sono morto. Allora voce mi disse, colui che nomina ciò che è, colui che ridiscende ciò che leva, è scivolato appresso a te. Non è colpa tua, povero d'un cristiano, a ribatte l'occhio, vero? Lui ci ha provato a piammar volo mare in corso, ma colui che cammina sulle acque le divide, ossia lui, il Messia, è scivolato. E Peparasse non si è agganciato al principale mio, si è voltato verso colui che stava messo meglio sulla terra. E mica poteva affossarsi appresso a me, per far gesto, mi ha dato una botta, più di qua che di là. E so franato, come una pera cotta, ho fatto un botto con la testa, un botto tutto rosso sono diventato, e la tuta, e l'elmetto, e una pozza di sangue, e la foto, oddio la foto, quella che tenevo nell'elmetto, lì finia. Quella pulita pulita mi è rimasta in cima al parapetto e mo me luccica sulla tomba. Infatti appena che me so lasciato l'ultimo respiro, stretto stretto, vicino al petto, m'hanno cercato, m'hanno trovato e le fii subito so accorsi. Piagnevano che la terra sotto i piedi franava un'altra volta e dopo una manciata di singhiozzi l'hanno subito divisi dal quadro che gli pareva annanzi. Risonava come lo bronzo delle campane picchiate a festa. Il lamento del mio figlio, del maschietto, del mocciosetto, una nota che il vento culava forte fino a solleticare l'ali degli angeli tutti, eppure delle mia, che certo io ancora me ce dovevo in pratica a spiegarle come l'altri, a vedermi che sbatteva a destra, a manca, parevo un polletto. Mi rodevano le palle, a risaliesse un'anima. Il vento, le grida, mi schiaffeggiavano la testa, mi formicolavano da dosso, il vento, le grida, mi schiaffeggiavano la testa, sbandavo senza mai trovare un momento per voltarmi, il vento, le grida, mi spingeva nel grugno contro il sole, senza che io facessi niente. E mentre salivo, perdevo i ricordi, che piano piano mi scivolavano de dosso, desiderosi pure loro col corpo già freddo di rimanere impantanati con quei ragazzi, i miei, i più sacri degli battesimati. Perdevo i ricordi. E io non glieli impedivo mica, stanno meglio con loro, pensavo, ma se devono portare dentro, non me devono scordare, li bambini mia. Mai. Piadiveli tutti i ricordi. E piadiveli tutti sti ricordi, che tanto a me non me servono. Tra i vapori de sto cielo, piadiveli tutti, io rimango con gli sogni. Pochi. E ve guardo, senza mischiamme, sperando che questo faccia il capoccione, magari meglio. Che io ve guardo, ma lui... Che ve riguardi. Infatti poi che sono morto il gallo dice al pollaio che non è successo niente. E una volta andata via ambulanza si riprende a lavorare. Per tanti mesi e mesi mi sono creduto sdraiato in convalescenza, seduto, a letto. Anche perché non ho visto, che ne so, giornali, i processi, avvocati, la polizia, i senatori, i sanatori. Mesi e mesi e mesi dopo venga a sapere che il capo ha voluto lui una multa. Che sarà obbligato lui a farsela per non far scalpore fra la folla, per evitare male peggiore, che invece col carcere doveva pagarla, che poi pure se l'avessero accusato d'omicidio colposo, che ne so, appena sarebbe stata 5 anni. Mica l'ergastolo, no, 5 anni, quanto il tempo della laurea, quella che sognavo pure io te prende, che io a mio padre io gliel'avevo promessa e che me non più. 5 anni la vita mia costa, una laurea, ma lui se l'è cavata con una multa. Sto ricordo io me lo tengo, che è pieno di risentimento. Non glielo lascio, no? Questa è una cosa che rimpiango e che spero serva presto per giudizio. Da quando son nasciuto, per paura della morte, l'inizio ho perduto e il passato m'ha stancato, il futuro m'ha assaltato, lento è il presente, il tempo mente, ho mal di tempo, tempo filato, tempo passato, tempo vissuto, tempo perduto. L'avvenire m'ha fuggito e il passato m'ha inseguito. Solo il presente mi tiene a mente. Il passato m'ha imbrogliato, il presente mi tormenta, il futuro mi spaventa. Due facce d'una stessa moneta. Sicura testa io. Croce sicura lui. Sicuri che la faccia non sia una. Sicuri della vostra procedura. Sicuro che la fine qui s'aggira. Problema mio. Tuo. Suo. Nostro. Vostro. Loro. Un ricordo lo voglio lasciare. Che spaventi qualcuno. Che sconvolga le ore. Che non faccia dormire. E si lasci cullare tra pensieri e parole. Studio per prendere tempo, per un alibi. Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Anche quella diventa un'industria, la formazione. Anche quella diventa una truffa. Anche quella spezza le ali. Anche quella ti lascia morire. Toc, toc, toc. Eccolo il tempo che scorre lento. Ehi, tu! Attento alle ore. Tutte feriscono. L'ultima no.